allora, invece questa è un po' il motivo per cui io non ho rappato su questo disco, ho lasciato rappare i miei fratelli. E vabbè, questa la produce un big DJ Shablo, One Love. Aspetto un beat così pure per me più avanti, che ce l'ho delle storie così da raccontare. Ciao Hater! Yeah! Hater Proof! Yeah! Mentre voi ascoltate questo, noi siamo già pronti a produrre il vostro futuro. Yeah! Un abbraccio a chi ci supporta, un vaffanculo a chi ci odia però ci ascolta. Succhiate c'è il cazzo, vai così. Quando t'ho conosciuta ci avevi un vestito a fiori, e infatti me ne hai combinate di tutti i colori. Mi hai detto sono fidanzata, il mio ragazzo è fuori. T'ho detto andiamo a casa, tu hai dei migliori. Ne faccio una, mi dici che non sei abituata, che ti impara noia e ti rovina la serata, che lui ti manca e che sei innamorata. Provo a farti cambiare idea con un pigna collata. È come una partita a scacchi, tu mi guardi gli occhi, io ti guardi i fianchi. Io dentro le Air Force, sopra quei tacchi. Ti aggiusti il reggiseno, io spero che te lo stacchi. Quindi dai, la tua amica se n'è andata, è una come te, io l'ho sempre desiderata. So fare questo, mica la serenata. Si può fare altro per il resto della serata. È inutile che dici di no, qualunque cosa mi proponi ci sto. Ho visto che mi guardi da un po', si vede che lo sai in testa che c'ho. Perciò se ti chiedo di fare un tiro, è inutile che dici di no. Se dopo ti chiedo di fare un giro, è inutile che dici di no. Baby, t'ho vista, sei una tentazione. La mia domanda è libera interpretazione. Spero che mi rimanga la concentrazione, per ciò che manca riempire l'equazione. In pieno inverno sono arrivato all'alba, ricordo il posto, il rosso delle tue labbra. Lo smalto, lo sguardo da cardiopalma, in quegli istanti intatti nell'ambra. E un paio d'ore dopo molto più fatti, solo poche parole, baby, molti più fatti. Ti porto a casa, non preoccuparti, ma sappi che se resto da te facciamo molto più tardi. Tutti quanti hanno orizzonti ristretti, noi abbiamo tutto il tempo che pensiamo ci spetti. Se mi aspetti nei tuoi jeans stretti, io ho già tutti gli impegni disdetti. È inutile che dici di no, qualunque cosa mi proponi ci sto. Ho visto che mi guardi da un po', si vede che lo sai in testa che c'ho. Perciò se ti chiedo di fare un tiro, è inutile che dici di no. Se dopo ti chiedo di fare un giro, è inutile che dici di no. Yes, è inutile che dici di no. Se sei un uomo, la roba così ti piace. Se invece sei una checca, ti piace nelle canzoni da femmina. E invece, tornando ai discorsi importanti, quelli da uomini, se vi è piaciuto sto disco, compratelo. Comprate le magliette, Hater Proof. info@toniro.it. Trovate tutto merchandising. One love, alla prossima, raga. Le volemo sempre bene. Peace.